Siamo molto avanti col tempo, quindi io non vi ruberò più di 2 o 3 minuti, proprio per assumermi un compito puramente prosaico, anche perché non intendo entrare nell'ambito dei contenuti che sia per l'aspetto filosofico che per l'aspetto religioso sono stati così ben illustrati dal professor Micheletti e da Enzo Bianchi. Mi assumo il compito molto prosaico, appunto, di illustrare di spiegare come abbiamo riorganizzato il materiale come curatori di questi 2 volumi, per chi non ha ancora avuto modo o l'occasione di sfogliare i 2 volumi. Sono appunto gli atti del convegno dal 15 al 17 ottobre dell'87, che ha visto la partecipazione di più di 40, esattamente 41 studiosi, non solo italiani. Quindi il problema che ci si è subito presentato è stata la riorganizzazione di questo materiale. E l'ampio materiale raccolto nelle 3 giornate di studio, insieme ad altri contributi richiesti a studiosi allora non presenti, in particolare un contributo sull'aspetto propriamente teologico, che ha proposto poi il professor Giampiero Bo, e un contributo suggestivo anch'esso sulla rappresentazione iconografica del tema del silenzio, per poter così completare la gamma della prospettiva interdisciplinare. Come dicevo, quest'ampio materiale raccolto nelle 3 giornate di studio è stato poi da noi organizzato sotto 3 aspetti. In primo luogo quello interdisciplinare, questo affresco interdisciplinare, in secondo luogo quello teoretico e poi quello storico. Ecco, quindi il primo volume, il più ampio, in pari 600 pagine, è diviso in 2 parti. Nella prima, sotto il titolo I molteplici sentieri del silenzio e della parola, si è cercato di offrire questo composito affresco interdisciplinare che pone in luce i diversi possibili approcci al tema. Quindi qui si ritrovano tutte le relazioni presentate al convegno che cercavano di scandagliare come la filosofia, la poesia, la mistica, le 3 grandi religioni monoteistiche, la spiritualità orientale in ambito buddista, la Bibbia, la liturgia cristiana occidentale, almeno anche un saggio di quella orientale, hanno articolato il rapporto tra silenzio e parola. Ecco, la seconda parte, invece, sempre del primo volume, al quale abbiamo assegnato il titolo La dimensione comunicativa ed esistenziale della parola del silenzio, in questa seconda parte i contributi svolgono invece un percorso a prevalente carattere teoretico, nel quale silenzio e parola sono colti come dimensioni che attengono alla comunicazione, con i suoi codici e le sue leggi che la semiologia cerca di illuminare, ma anche come momenti decisivi sul piano esistenziale, come è stato rimarcato molto bene dal professor Micheletti. Si affrontano così i problemi del linguaggio e della comunicazione, della riflessione e della poesia, di una prospettiva sapienziale da ritrovare, per concludere con l'analisi dei confini del linguaggio, del silenzio e della parola in rapporto al teologico. Ecco, vedete, come vedete, i contributi presenti in questa seconda parte del primo volume sono diversi, anche se tutti convergono sul posto di presentare teoricamente la complessa tematica. Ecco, invece, il secondo volume segue un itinerario di carattere storico-filosofico, incontrando lungo il percorso, a partire da Eckhart, ecco, se volete, un limite, ma un limite oggettivo, che ammettiamo molto francamente, anche nell'organizzazione del convegno, abbiamo voluto occupare in questo percorso e occuparci in questo percorso storico-filosofico soprattutto dell'ambito moderno e contemporaneo, anche se evidentemente su questo tema del silenzio sarebbe opportuno un volume anche sempre di carattere storico-filosofico su tutta la tradizione antica e medievale. Comunque, il secondo volume, diceva, appunto, segue questo itinerario storico-filosofico, incontrando lungo il percorso, a partire da Eckhart, nel quale si sintetizza la migliore tradizione agostiniana, autori come Pascal, come Kant, come Schleiermacher, come Kierkegaard, come Nietzsche, come Wittgenstein, come Heidegger, come Jaspers, Guardini, Sartre, fino appunto a Jabè. Quindi personaggi molto diversi, ovviamente, ma accomunati da una profonda attenzione alla tematica del silenzio, e non solo, ovviamente, a quella della parola, in quanto logos e centro di ogni argomentare filosofico. Diversi sono anche i silenzi cui autori come quelli che vi ho indicato fanno riferimento, ma è comunque certo che anche tanta filosofia contemporanea è attenta al silenzio per ritrovare una parola autentica, per sottolineare i limiti della ragione, per combattere la chiacchiera. di particolare rilievo è poi il silenzio in una dimensione religiosa dell'esistente, come abbiamo scritto nell'introduzione. Non sembra esserci spazio ormai per un autentico filosofare che non sia fecondato dal silenzio. Il silenzio è la necessaria introduzione alla filosofia ed ogni tentativo metafisico, ma il silenzio è anche ciò che apre il pensiero umano alla trascendenza dell'essere. Io mi fermo qui, voglio lasciare la parola subito all'altro curatore, che col quale ho collaborato molto volentieri, ho imparato molte cose, che, come diceva prima anche Enzo Bianchi, è stato veramente un pioniere sulle frontiere della ricerca filosofica e linguistica in merito al silenzio e la dialettica e silenzio-parola, che mi sembra abbia offerto il professor Baldini un grande contributo a offrire nuova legittimità, oltre che per offrire suggestioni all'ambito religioso, ma anche nell'ambito propriamente filosofico, offrire nuova legittimità, nuova cittadinanza a questa tematica del silenzio.